9 in punto, la versione di Oscar. Oh, eccoci qua, buon 23 di febbraio, oggi il santo è Policarpo, non molto frequente, ma questo giovedì 23 febbraio auguri di Policarpo. Allora, rapidissime le notizie europee a supporto dei Doors, notizie che come vedete inducono i mercati a non essere molto fiduciosi dopo il voto del secondo tranche, cioè 33 miliardi di sostegno alla Grecia. Brevissimamente dal Financial Times e l'approfondimento sul fatto che i tedeschi sono a questo punto contrari, o almeno dichiarano che non è il momento di parlare della fusione dell'FSF e del SM, ISM, perché non è il caso. La strategia è sempre la stessa: comprare tempo in maniera tale che l'opinione pubblica tedesca non si rivolti. E invece gli olandesi, e ci informa Financial Times, hanno cambiato idea, da che erano contrari anche loro, quindi sulla linea regole tedesca, sono diventati favorevoli alla fusione e all'accrescimento delle dotazioni, in maniera tale che da giugno in avanti ci sia una dotazione congiunta intorno al trilione di euro. Financial Times Deutschland, qui è il governatore centrale del Messico, Agustin Carstens, che è attualmente il presidente del G20, che dice agli europei: guardate che voi o fate questa fusione mettendo più dotazione, oppure non chiedete poi ai paesi del G20, cioè alla Cina, al Giappone, eccetera, eccetera, dovete accrescere i vostri sforzi. Quindi anche in sede mondiale, come vedete, questo è il giudizio prevalente sul compromesso europeo. Il ministro delle finanze olandese, ieri su Le Monde, il ministro delle finanze olandese, che si chiama Jan Kees de Jager, è stato insolitamente tagliente nel dare giudizi sull'eurocompromesso greco. Ha detto testualmente: io non ci credo che possano fare quello che li abbiamo obbligati a fare. E ha detto: in ogni caso il mio paese è contrario a un eventuale terzo round di aiuti alla Grecia. Adesso basta, perché sono 240 miliardi e con quello che di aiuti diretti e con quello che ci dovremo mettere a fianco, con ciò che ci rimetteranno, cioè gli investitori privati, ce ne dobbiamo aggiungere altre centinaia, e il mio paese dice basta ai greci. Quindi è la stessa linea, altri commentatori come Cliff Crooks su Bloomberg, che dicono che l'accordo sulla Grecia non è in grado di stoppare la sfiducia sulla solvibilità di altri membri dell'euroarea da parte dei mercati. Mi fermo qui, potrei andare avanti a lungo, per esempio Wolfgang Munchau sullo Spiegel, che si sofferma sul deficit divergente, sulla posizione divergente della bilancia dei pagamenti all'interno dell'euroarea. Come vedete, sono tante le ragioni per cui i mercati hanno la sfiducia sull'eurocompromesso. Ma veniamo al tema di oggi. Il tema di oggi è quello dell'effetto che il governo Monti sta esercitando sui partiti che lo sostengono, il PDL e il PD. Siamo partiti con questa suggestione, che a dire la verità a me non entusiasma molto, non mi entusiasma mai di parlare di partiti per partiti, però tanti articoli di prestigiosi commentatori sui giornali e diversi sondaggi mi hanno rappresentato l'esigenza di un problema su quale sentire l'opinione di osservatori versati in questa materia, che tastano il polso degli italiani su questa materia, e soprattutto rivolgermi a voi che ascoltate per sentire come la pensate. Tre commenti in particolare mi hanno colpito e ve li richiamo. Quello che ha scritto sul giornale il 19 febbraio Giuliano Ferrara: i partiti sono vuoti a perdere, ha scritto Giuliano Ferrara, perché si è chiesto a cosa serve il PDL. A niente, anzi fa danno. Il partito si è mangiato la leadership, ha condotto alla perdita quota della maggioranza alle Camere, è stato un luogo di risse indiscernibili, di rinvii e intralci all'azione di governo. Liquidiamolo, dice Ferrara rivolgendosi ad Alfano, gli stato maggiore del partito Orbo, della leadership di Berlusconi. Poi si pone anche un altro problema, Giuliano Ferrara: a che serve il PD? Niente di niente, un simulacro di cultura in fusione permanente e in atroce divisione sempiterna. È stato utile soltanto alla battaglia dei capi, ma in realtà niente è solido nel collante sedicente che dovrebbe unirlo. E questa stessa riflessione Giuliano Ferrara estendeva all'UDC e al Terzo Polo. Dopodiché su Repubblica, l'indomani, domenica, una terza Repubblica contro i partiti, si chiedeva Ilvo Diamanti, e l'attacco dell'editoriale era a sua volta esplicito. Non è facile prevedere, scriveva, che ne sarà dei partiti e del sistema partitico italiano dopo il governo Monti. Mi accontento di prevedere il passato, non sempre mi riesce bene. Tuttavia mi sentirei di avanzare un'ipotesi facile. L'ipotesi di Ilvo Diamanti è: nulla resterà come prima. L'esperienza del governo tecnico infatti sta mettendo a duro prova la tenuta dei principali partiti, ma anche delle alleanze e delle coalizioni precedenti. E le conclusioni quali erano? Primo, se i partiti della Seconda Repubblica si sono personalizzati, la leadership personale dei partiti si sta rapidamente indebolendo, perché l'unico leader che mantiene un alto livello di consensi tra gli elettori è Monti, diceva Diamanti. Secondo, anche i partiti maggiori perdono consensi. Il PDL in particolare è ridotto al 22%, mentre il PD da gennaio, quando aveva superato il 29%, sta declinando anch'esso, seppure un po' più lentamente. Poi, terza osservazione di Diamanti: se si valuta la posizione degli elettori sullo spazio politico, però, emerge con chiarezza come la struttura delle coalizioni non sia cambiata. In particolare, la distanza tra gli elettori del PDL e del PD si è allargata per reazione alla coabituazione coatta, cioè agli elettori va stretta questa faccenda di vedere tutte le sere in televisione PD e PDL che nei talk devono far finta di sostenere con argomenti convergenti il governo Monti. Mi fermo qua, passando poi a un terzo editoriale: la cura Monti e il malessere dei partiti. Questo l'ho scritto invece sulla Stampa lo stesso giorno, domenica, Marcello Sorgi. E il commento è che l'orizzonte temporale del governo Monti è destinato ad allungarsi, scriveva Marcello Sorgi, non solo alle elezioni del 2013 ma anche oltre. Se si considera che il rapporto con l'opinione pubblica era già fortemente compromesso prima ancora dell'arrivo di Monti, non si può escludere che di qui a un anno l'attuale classe politica sia da rottamare in blocco. Ecco, queste le osservazioni, come vedete, convergenti di Marcello Sorgi. Allora, di fronte all'opinione così autorevole che praticamente tutti i quotidiani di diverso orientamento mettono in campo con prime file negli editoriali politici, mi sono posto la questione se non avessi sopravvalutato, per così dire, la tenuta del sistema politico precedente. Del resto ci sono fenomeni che precipitano. Alle amministrative avete capito che Berlusconi ha detto: non presentate il simbolo dovunque possiate evitare di farlo. I congressi del PDS sembrano quelli provinciali, assalti alle scialuppe da parte degli stati maggiori precedenti, con la gara a chi accumula tessere meno credibili, e così via. Cioè, fenomeni da fine di quel partito, non certo da ridimensionamento senza Berlusconi, ma da riassestamento con la nuova leadership, fine di quel partito. Nel PD in questi giorni trovate sui giornali l'effetto sull'articolo 18, l'intervista di Veltroni, come ha reagito Bersani e Fassina, come ha controreagito a Bersani e Fassino l'ala ex Margherita e più riformista del partito. Sentiamo come la pensano gli osservatori che abbiamo convocato, e poi iniziate a telefonare voi, elettori delusi o appartenenti a questo o a quello. E con noi per questa prima parte della trasmissione il professor Gianfranco Pasquino, che insegna scienza politica a Bologna. Buongiorno e grazie, professor Pasquino. Buongiorno a lei. E Alessandra Ghisleri, che è direttore dell'Istituto di Ricerca Euromedia Research. Buongiorno Alessandra Ghisleri. Buongiorno a tutti voi. Posso chiedere ad Alessandra Ghisleri, innanzitutto, nelle sue successivi auscultazioni degli italiani con sondaggi e ricerche qualitative o quantitative, alla fine di questi 100 giorni, quanto si sente di condividere queste analisi? È vero che ci sono fenomeni di mancata tenuta così drammatici in entrambi i partiti, anche se magari con proporzioni diverse? Che sviluppo ha la leadership di Monti rispetto alla leadership di partito? Tutto cambierà? E anche per questo che poi rifanno la proporzionale forse i partiti, perché tanto non reggerebbero più comunque nella struttura delle vecchie coalizioni? Lei che vede? Ma allora, intanto da quello che risulta nelle analisi continuative delle rilevazioni dei sondaggi, emerge che quando l'Italia aveva maggior bisogno della politica ha ceduto il passo a un governo tecnico, e quindi al di là delle grandi presenze mediatiche, dei problemi che la casta, dei politici che vengono identificati sicuramente come poco, diciamo, poco attenti al risparmio del denaro pubblico, la gente dà queste colpe, cioè dice non si capisce perché avete lasciato il passo. Questo è stato il primo passaggio. Il secondo passaggio è che effettivamente Monti ha una fiducia superiore al 50%, perché noi rileviamo una fiducia intorno al 54 e qualcosa, sia di lui che della sua squadra. E questa fiducia però è una fiducia guardinga, diciamo, non è una fiducia cieca, di pancia, una fiducia pensata, una fiducia perché attraverso questi sacrifici, attraverso questo governo che non ha sicuramente dei vincoli politici, si intravede, o si riesce, o meglio, ci fanno intravedere, mettiamo così, la luce di un'uscita. Le faccio una piccola parentesi: quando rilevavamo nel 2009 la crisi, i nostri intervistati vedevano nel 2010 il grande anno della riscossa. Quando nel 2010 si è affondato con i piedi proprio nella crisi vera, insomma è stato un anno molto difficile, allora le speranze si sono allungate di un paio d'anni, e Monti è riuscito, attraverso la sua comunicazione, attraverso il suo rigore, attraverso anche il fatto di essere riconosciuto dalla gente come un ottimo prodotto del nord, così, a piazzare, invece a ritornare a stringere il tempo di uscita da questa crisi. Non è vero che i partiti, è vero che c'è una crisi trasversale, non è legata a due partiti in particolare, evidentemente sono i primi due partiti del Parlamento per rappresentazione e anche per scelta degli elettori, e quindi hanno le percentuali di perdite più evidenti. È vero che manca questo riconoscimento, cioè manca, c'è un problema tra la rappresentazione e la rappresentanza, cioè viene a mancare un appoggio e un'identificazione di a chi devo chiedere. Un altro fatto sul quale bisogna riflettere è che in questo momento in cui vengono chiesti sacrifici, i politici non hanno più quel ruolo di mediatore che avevano tra le istituzioni e la gente. Hanno lasciato il passo da una parte sicuramente ai media che diffondono, e dall'altra le categorie si sono unite tra di loro per presentare i loro rifiuti. Faccio l'esempio, partiamo dai forconi per passare attraverso gli autotrasportatori, farmacisti, tassisti. Non c'era un politico in queste versioni, hanno scelto i loro rappresentanti proprio perché la fiducia di chi, pensando ai farmacisti, no? A Milano un farmacista ha fatto evidentemente una provocazione mettendo uno sconto Tavor 3x2 per far capire la possibilità di, diciamo, di quanto potrebbe essere sbagliata la liberalizzazione sui farmaci di fascia A. Allora, tutto questo fa pensare che i politici abbiano un po' perso il loro ruolo di attori, e la gente lo percepisce fortemente. Questo è un forte valore. I marchi e la storia dei diversi movimenti, ecco, dovrebbero movimenti è la parola, che si muovono sul territorio, dovrebbero riuscire di nuovo a farsi carico dei bisogni della gente. Questo è quello che si legge. Ecco, questo ultimo tema che ha toccato a Alessandra Ghisleri a me piace molto, perché non avendo gli strumenti interpretativi, quantitativi e qualitativi, e quindi per vederne l'evoluzione nella testa, nelle opinioni espresse quantomeno dagli italiani, però lo avverto da osservatore, e lo giro a Gianfranco Pasquino, cioè l'identificazione o quantomeno il ruolo propositivo di questo o quel partito, di questa o quella ex coalizione rispetto ad alcuni temi di fondo, io lo vedo o molto annacquato o molto confuso. Faccio alcuni esempi per capirmi. Non sto parlando dei meccanismi identitari che per 17 anni sono stati quelli di fondo nell'interpretazione delle coordinate politiche italiane e della linea destra-sinistra, cioè Berlusconi sì, Berlusconi no, eccetera. Parlo di cose concrete, quindi di issues. Quali? Guardate le liberalizzazioni, come diceva Ghisleri, il Parlamento sta effettivamente molto smontando il decreto liberalizzazioni, alcuni punti di quel decreto, esattamente sui taxi, esattamente sulle farmacie, esattamente. È avvenuto secondo me proprio quello che dice Alessandra Ghisleri, le categorie sono entrate in Parlamento forti di una posizione di o perplessità o esplicita, motivata, argomentata sui media, contrarietà ad alcune delle scelte che c'erano in quel decreto, stanno portando a casa, perché si sta smontando parecchio, molto di quel decreto, quello che è avvenuto è che al di là di una parte, quella delle liberalizzazioni su Eni Snam, che il PD ha molto difeso, dall'altra parte il PDL si è, per così dire, immerso sotto l'acqua, lo sta facendo in aula, ma non ha avuto un ruolo esplicito di fronte al proprio elettorato, né a difesa né contro nel giudizio generale, tranne alcune espressioni di circostanza, e soprattutto su questi punti che si stanno smontando lo sta facendo in silenzio. Faccio un altro esempio invece di identità che in quel caso non è dichiarata ma è confusa. Nel PD c'è una forte questione che ha a che vedere con i costi della crisi, la difesa di alcuni simboli, che sono ad alta caratura politica, e si vede appunto nelle polemiche del post intervista a Veltroni, con grande evidenza questo fatto, sull'articolo 18, la riforma del mercato del lavoro e così via. Anche lì però, mentre c'è chi nel partito che dice dobbiamo fare una scelta, e la scelta è quella della famiglia socialista europea, quindi dobbiamo batterci per difendere queste cose e dire al governo non le tocchi, con tutte le conseguenze politiche e identitarie che ha questa cosa, l'altra linea è quella di vivere con una certa distacco, superiorità, non risposte altrettanto chiare a chi fa questa questione. Quindi lì c'è un'identità, sì, però è confusa, perché non si riesce a capire poi cosa succederà rispetto a chi batte il pugno o comunque chiede con energia. Mettiamo una trincea netta, e la nostra trincea è: governo Monti, tu puoi dire quello che vuoi, ma poi noi non ti voteremo mai provvedimenti o riforme del mercato del lavoro che vadano in quella direzione. Pasquino, che ne pensa rispetto all'analisi che abbiamo fatto fino a qua, ma poi guardiamo oltre, qual è la sua opinione su cosa succederà a PD e PDL rispetto alla loro attuale configurazione ai prossimi turni, se questa è la sensazione fondata che abbiamo? Provvedimenti del governo, è chiaro che i partiti hanno posizioni leggermente differenti sia fra di loro sia rispetto al rigore e alla decisionalità del governo. Io credo che alla fine si giungerà un compromesso che però rappresenta al 75-80% le posizioni che il governo ha variamente espresso e qualche volta predicato con maggiore o minore capacità e incisività. E mentre sul futuro ascoltavo con attenzione, è una domanda ricorrente, come certamente sapete tutti, e ci saranno ancora questi partiti, ci saranno ancora queste leadership nell'aprile del 2013, che in questo momento mi appare un periodo lontanissimo, perché ricordo tutti che siamo nel febbraio 2012, e c'è un anno e un mese, quindi come un mese o due come minimo per arrivare al 2013. Non è detto, perché possono esserci degli inconvenienti, che il governo stesso arrivi al 2013, c'è una crisi economica irrisolta a livello europeo, economica finanziaria, con tutte le conseguenze che può avere su un paese che non è ancora del tutto risanato e certamente non è rilanciato come l'Italia. E però devo ricordare a tutti che 20 anni fa c'era una cosa che hanno chiamato mani pulite, e oggi scopriamo che non è cambiato granché rispetto a 20 anni fa, anzi molti dei protagonisti in Parlamento c'erano già 20 anni fa, erano già in politica alcuni di loro, qualcuno era in magistratura, però c'erano già tutti, e cioè questo è un paese che ha profonde continuità, potremmo anche dire che ha una stagnazione della classe politica. I partiti hanno cambiato i nome, questo è vero, non tutti, però molto spesso le strutture sono rimaste quelle che sono. Sì, ci sono dei partiti personalistici, li intravedo, ma che si sono piantati su una struttura in qualche caso sociale, in qualche caso semplicemente organizzativa preesistente. E quindi faccio molta fatica a vedere Bersani in pensione nel 2013, o a vedere Anna Finocchiaro tornata in Sicilia, o a vedere Cicchitto che finalmente va a spasso per Piazza Navona senza dover rilasciare interviste. E continuo a pensare che ci sono ancora, che condurranno la campagna elettorale, avranno ottenuto dei sanissimi posti nei punti alti delle liste dei loro partiti, avranno già dichiarato tutta una serie di cose relativamente alle coalizioni prossime venture, o non le avranno dichiarate a seconda della legge elettorale che vorranno fare, e alla fine gli elettori si troveranno quel menu lì, cioè non ci saranno organizzazioni nuove, non ci sarà l'irruzione come fu nel 94, questa è la vera rottura, di un leader carismatico, perché Berlusconi nel 94 era tecnicamente un leader carismatico, e quindi ci troveremo, come dire, con in grosso modo gli stessi attori, e questo naturalmente mi pare un elemento, come dire, di preoccupazione. Ma sai che, professore, io invece non ne sono convinto. Faccio un esempio: nell'area che conosco meglio, cioè quella dei delusi dichiarati, che sono i più di quelli che vengono a mancare nel centrodestra ai sondaggi attuali del PDL, sono tanti, lì c'è un problema, perché la delusione dopo 17 anni di concentrazione sui loro problemi, di chi gli aveva preso i voti ogni volta, è proprio tangibile, evidente, cioè non ne vogliono più sapere di una leadership della leadership di cartone lasciata da Berlusconi nel PDL, detta proprio fuori dai denti, non gliene importa niente, e li considerano persone, per così dire, privi di attitudini non carismatiche, ma di dare risposte coerenti al motivo per cui quei voti venivano presi e mai poi tradotti in cose concrete, coerenti a quello che si diceva. Dall'altra parte si sforzano, ma vedono che nell'offerta politica attuale non c'è nessuno, per così dire, che dica tot punti di spesa pubblica in meno, tot punti di tasse in meno, perché vedono un'asse di continuità, per così dire, nell'impostazione tecnica di Monti, che è quella, in altre parole, della linea Amato 92, pro di ingresso nell'euro, i sacrifici di Padoa-Schioppa, Visco, ma anche quelli di Tremonti, tali e quali, che in questo, per questo li ha delusi. Perché gli... Allora, in quella parte lì, secondo me, non è detto che non ci sia una modifica dell'offerta politica, dal basso, dall'alto, qualcuno con i soldi di un'organizzazione, è difficile che sia come Berlusconi, intellettuali dal basso che iniziano a riempire i teatri, questa era l'ipotesi meno credibile, perché dietro gli intellettuali non ci va nessuno. Però lei, da questo punto di vista, professore, non crede che la capacità, per così dire, di andare avanti, quando lei dice i Bersani, i Finocchiaro, eccetera, sì, ma nel centrodestra non si è aperto un vero e proprio buco, secondo lei? Nel centrodestra si è aperta una delusione maggiore, perché c'era la grande finestra di opportunità di un governo che poteva durare 5 anni, era una seconda finestra, già non sfruttata bene quella tra 2001 e 2006, e quindi c'è maggiore delusione. Dopodiché però quegli elettori lì dove vanno, tecnicamente parlando? Sono elettori che comunque non voterebbero mai per un partito di sinistra, e neanche per un Partito Democratico nel quale vedono alcuni, in realtà pochi, elementi di sinistra, però vedono molti leader che sono ex post comunisti, che non hanno in realtà molto migliorato la loro comunicazione politica, che non sono particolarmente convincenti o particolarmente attraenti. Allora, se il menù è quello, alla fine quell'elettorato di centrodestra, che comunque quella sinistra lì non la vuole vedere, non vuole vedere la narrazione o narrativa di Vendola, gli eccessi di Pietro, se lo ricorda ancora, quando arringava nelle aule del Tribunale di Milano, non lo gradisce nei suoi atteggiamenti anti-berlusconiani, perché quel centrodestra può essere deluso, però ha sostenuto Berlusconi molto a lungo. E allora dove vanno? Hanno uno sbocco normale, se vivono al nord, che è la Lega Nord, e se la Lega Nord riesce in qualche modo anche lì a evitare eccessi al suo interno, è appetibile per quella parte elettorato. E hanno un altro sbocco che potrebbe benissimo essere il terzo polo, è per questo che Casini si muove, oserei dire, da statista, appoggiando il governo in una visione nazionale, ma al tempo stesso senza dare nessun tipo di indicazione che si muoverà a favore di un'alleanza con il Partito Democratico. E quindi quell'elettorato alla fine avrà diverse opzioni. Una, starsene a casa, che è un'opzione perseguibile, ma che gli elettori italiani perseguono in realtà pochissimo. E scegliere la Lega, oppure scegliere la cosa più moderata che trova sul mercato elettorale, o se va bene la mia analogia col pranzo, sul menu, e quella cosa lì si chiama UDC, terzo polo. Ah no, certo, ed è un quadro questo che può fare anche ben sperare la Lega rispetto a chi diceva che stava messa malissimo. Ghisleri, secondo lei, è vero che comunque il governo Monti figlierà a propria volta delle modifiche dell'offerta, e che a propria volta, a differenza di quanto immaginassero, sbagliando molti all'inizio, ragionano molto con un occhio anche all'evoluzione settimana per settimana delle indagini che fanno lei, i suoi colleghi, quelle sui consensi? Sì, allora, intanto è vero, cioè l'offerta che si propone è quella di allargarsi, di trovare uno spazio al centro, ma spesso si trova questa opzione. E dall'altro lato noi abbiamo la possibilità di vedere una selezione di quello che sarà il personale politico. Ecco perché c'è una spinta verso il proporzionale, perché questi tecnici hanno presentato, cioè hanno posto la loro competenza e quindi il loro curriculum vitae, se vogliamo anche il loro tra virgolette conflitto di interessi, come carta valida per poter trattare l'argomento. Quindi questa competenza è utilizzata e sarà sicuramente screening e quindi filtro di scelta del proprio politico di riferimento. E sicuramente i delusi andranno a cercare i propri referenti, se non ci sarà un messia dei grandi valori che muoverà le pance degli italiani, come accadde 20 anni fa, si rifugeranno nel tappo del naso e con la scelta di quello che potrebbe essere l'indice più vicino. Anch'io non penso, è molto presto, perché se pensiamo che un anno fa nel predire una coalizione PD-PDL sì, ci sarebbero state risate, ci avrebbero dato dei pazzi. Eppure, quindi non lo so, sicuramente non penso che la gente veda male le alleanze PD-PDL o il sostenersi a vicenda, penso più che desideri una maggiore criticità e uno spunto in difesa di quelli che sono i mandati elettorali dati 4 anni e mezzo fa. Penso che a un tavolo ci si può sedere non sempre per dire sì, ma si viene accolti quando si è critici e quindi quando si fanno valere i propri no. Ecco, i politici che vorranno essere all'interno, perché poi quello che mi viene da pensare è il fatto che poi alla fine i soliti noti, anche di fronte a un valore molto basso di partito, avrebbero il loro posto in Parlamento. Certo. Questo è quello che la gente critica di più. Infatti questo è uno dei motivi per cui la casta piace meno. Ma mi colpisce per esempio che addirittura un quotidiano come Il Fatto oggi mette un editoriale in prima pagina: è meglio l'elite della casta, firmato Nanni Dal Becchi. Allora, se Il Fatto, che è un giornale dal basso, dichiaratamente polemico verso le caste di tutti i tipi, a cominciare da quelle dei partiti della sinistra organizzate, il suo successo è un successo dal basso che leva pubblico a Repubblica, eccetera. L'inno all'elitismo, cioè se devo pensare a Mosca e a Pareto per avere punti di riferimento altri, letto sul Fatto, mi fa pensare che probabilmente hanno ragione Pasquino e Ghisleri. Ci sono evoluzioni di fronte alle quali bisogna essere umili e modesti, perché non sappiamo mai dove si può arrivare. Il giorno che dovessi vedere l'inno all'elitismo dispiegato sulle bocche dell'onorevole Di Pietro, allora io inizierei seriamente a pensare che forse è meglio che devo prendere un aereo. Eccoci tornati in studio e abbiamo aggiunto ai nostri ospiti Antonio Polito, editorista del Corriere della Sera, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, perché Antonio Polito ha, di fronte esattamente alla questione che stiamo affrontando, ha scritto una tesi netta e l'ha scritta in controtendenza. Cioè ha scritto: guardate, con tutto il rispetto verso chi pensa diversamente ai sondaggi e con tutti i limiti che vanno riconosciuti rispetto a come i partiti stanno articolando nel passato e nel presente oggi il loro ruolo, con distinte responsabilità, centrodestra e centrosinistra, però senza i partiti il sistema non si regge. Meglio i partiti sempre del leaderismo dei tecnici, è così? Ma io penso di sì, cioè credo che non conosco altri esempi, almeno esempi di successo, fulgidi, di democrazia organizzata su qualcosa che non siano partiti. Poi naturalmente i partiti si possono cambiare, trasformare, rinnovare, migliorare, anche ne possono nascere di nuovi, come è successo nella storia italiana anche di recente, ne sono nati tanti di nuovi. Ma alla fine, quando uno deve andare a chiedere il consenso dei cittadini per fare una determinata politica, deve fare un partito, deve costruire una parte, partito viene da parte della società, orientata a un certo programma o una certa idea della nazione, del paese in cui vive. Non vedo altro modo. Oltretutto la democrazia interna, la capacità, la possibilità di discutere all'interno di un'organizzazione politica è certamente molto più elevata in un partito che in un gruppo, diciamo, leaderistico. Non so, per esempio nell'IDV d'Italia dei Valori di Pietro non si può immaginare che esista una democrazia interna, mentre invece in un partito magari caciarone, un po' casinista come il PD, la democrazia interna ci deve essere per forza. Questo, trattandosi di gruppi che prendono anche cospicui finanziamenti pubblici, è anche una forma di garanzia che ci sia una forma di democrazia interna, dei congressi, che si voti in maniera palese, che ci si elegga i propri organismi dirigenti. Se no diventano dei piccoli proprietari di tassi personali che portano se stessi in giro per il potere senza nessun rapporto con la democrazia. Oh, io dico agli ascoltatori che stanno, giustamente, le sensibilità non sono solo quelle del PD e PDL, i due pilastri del bipolarismo che oramai si appresta al proporzionale, quindi è finita quella lunga storia. Io rimango senza parole di fronte al fatto di come sia finita così, cioè a tralucci e vino questa cosa della scelta delle coalizioni e dei premier sulla scheda. Quindi io mi impegnerò, per esempio, perché in qualche maniera se ne parli, perché mi sembra un po' singolare che se ne esca attraverso questa uscita di sicurezza, dando magari la colpa a Monti, che non c'entra niente su questo. Ma molti ascoltatori ci dicono: no, ma voi non parlate poi delle altre cose che si sono viste affermarsi in questi anni, cioè la lista 5 Stelle, il Movimento dei Grillini, cioè che si torna in Parlamento la sinistra antagonista, come è rimasta nell'espressione della crisi interna delle primarie del PD. No, tutto vero. Io mi limitavo a richiamare che negli editoriali ovviamente ci si concentra sui partiti maggiori. Il crescere di quei consensi politici è stato poi uno dei motivi di espressione di crisi dei grandi partiti. Non è detto che se si va dal proporzionale non esploda poi tutto questo, perché nel proporzionale la tendenza alla separazione dei grandi partiti, secondo me, esce inevitabilmente. Pasquino, per esempio, l'effetto che il proporzionale fa rispetto ai motivi che portarono alla nascita del PD, secondo lei non è pressoché inevitabile? Cioè, come ai tempi di proporzionale c'erano le nature e le culture che erano diverse, che poi confluirono nel PD, se torniamo al proporzionale, perché non dovrebbe riavvenire esattamente ciò che c'era prima ai tempi del proporzionale? Lei che dice? Sì, fondamentalmente il proporzionale agevola la formazione di gruppi nuovi, che spesso tanto nuovi non sono, ma che sbucano dall'insoddisfazione di dentro alcuni partiti vecchi, e quindi il PD ha delle difficoltà a tenere insieme tutto quello che vorrebbe se accetta una legge proporzionale, per di più con una soglia di sbarramento abbastanza bassa. Però un discorso simile va fatto anche per il PDL. Ah, non c'è dubbio. Il proporzionale finisce in un certo senso per ferire entrambi i partiti più grandi, perché al loro interno qualcuno che pensa: noi comunque mettendoci insieme avremo il 4, 5, 6% ci sono, e quindi potrebbero decidere di andarsene. Magari non se ne vanno, ma contrattano in maniera più aggressiva la loro presenza. In questo caso vuol dire in maniera da avere più seggi per i loro collaboratori, per i loro sostenitori. E il proporzionale in un certo senso apre maggiormente la competizione, però con il rischio poi che rimettere insieme i cocci che il proporzionale ha in qualche modo prodotto sarà molto difficile. Ghisleri, secondo lei a questa scelta che pare presa, al di là dei particolari, ampiezza o meno delle circoscrizioni, quante preferenze rispetto a quante liste bloccate, al di là dei particolari, ma mi pare che la convergenza PD e PDL a bocca stretta la dichiarano, ma a questa scelta secondo lei i rispettivi stati maggiori sono arrivati perché hanno visto limiti di tenuta del vecchio sistema rispetto all'elettorato, non c'era più un leadership di centrodestra comunque in grado di candidarsi a governare col maggioritario, ergo tanto vale smontare il maggioritario, oppure perché c'è chi al loro interno pensa proprio agli effetti di separazione, tornando al proporzionale, secondo lei? Ma io credo che sia da una parte per il discorso delle competenze, da una parte la mancanza di una leadership forte per trasversalmente, perché come diceva un altro professore, chi in questo momento non perde né guadagna elettorato ma naviga nelle sue acque, Casini, che quindi contiene a mantenere il suo valore. Dall'altra, i sondaggi quando vengono realizzati propongono nella maggior parte dei casi la simulazione di una scheda elettorale all'interno della quale vengono elencati o fatti vedere tutti i partiti in rotazione, eccetera. Non c'è l'indicazione del premier. Sicuramente l'indicazione è quella che muove la maggior parte di persone che, come lei, si dichiarano indecise o poco volonterose ad andare a votare, proprio per il motivo perché non c'è un riconoscimento. Proporzionale è come se annebbiasse in un certo senso tutte le carte, perché alla fine si vota per un partito, un'idea, ma bisogna vedere bene chi c'è all'interno, bisogna riuscire a capire quali sono le proposte. Pensiamo ad esempio a Monza, uno dei candidati che si presenta, da, già detto, da un anno ormai, è Ilona Staller. La sua competenza come candidato sindaco credo che sia pari, molto molto bassa. Ecco, questo è quello che il cittadino vuole vedere. Infatti nella partecipazione alle amministrative c'è un risvolto importante, che è quello di conoscere, vedere le persone e riconoscerle, quindi con la scelta diretta delle preferenze. Questo sarebbe quello che vogliono i cittadini. Quello che vogliono i politici invece è una rappresentazione per poter tutelare il loro, insomma, il loro potere. Però non bisogna dimenticare una cosa: il cittadino ha capito perfettamente che questi partiti possono effettivamente tenere o mandare via Monti con il voto alle Camere, e quindi questa per loro è la scelta democratica del paese in questo momento, e questo è importante, perché non passa sotto gli occhi di tutti, perché la gente l'ha compreso perfettamente. Quindi dice: Monti deve andare avanti, perché in questo momento, sia che tranquillamente viene anche molto elogiato non solo da noi ma anche dalla nostra stampa ma anche all'estero, anche perché, proprio per quello che dicevo prima, per il fatto che fa vedere che c'è la fine, ci potrebbe essere un riscatto del nostro paese. Sì, io però vedo che i partiti sono molto prigionieri del ruolo poter criticare. La differenza è che poi dovrebbero criticare in coerenza a una propria evoluzione identitaria, con una certa durezza, proprio contando sul fatto che c'è questo margine per il quale lo sappiamo che non hanno la vera possibilità di mandare a casa Monti in questa condizione, ma dall'altra parte poi in Parlamento possono modificarne molto i provvedimenti. La cosa che non capisco è inginocchiarsi nel servoencomio, in cui naturalmente è specialista i media fanno sempre così con i governi pro tempore, ma in questo caso hanno buone ragioni, perché è vero che l'Italia si è ritirata in piedi agli occhi del mondo, ma i partiti si affidano al servoencomio e poi invece trafficano sotto banco in Parlamento, che è una roba che proprio non capisco, perché fa a pugni con la loro necessità di radicarsi agli occhi di un elettorato che li abbandona ed è indeciso di fronte ad alcune precise scelte. Il problema è che loro, al loro interno, le precise scelte non ci sono contraddittorie. Forse questa è una delle ragioni per cui vanno al proporzionale, dividendosi. A quel punto il PD non ci sarà più, secondo me, perché Berlusconi farà un'altra trovata, vediamo se mi sbaglio, e altri forse scenderanno in campo con altri sistemi. Una parte del PDL andrà nel centro, diciamo così, cattolico, casilian, montiano. Vediamo. Quello che non riesco a capire è come possa un paese avere poi meccanismi maggioritari che funzionano nei livelli amministrativi, tanto le comunali quanto le regionali, con metodi diversi, e una legge politica invece di proporzionale, che serve solo a rappresentarsi e a tutelare il maggior numero di stati maggiori. Dopo anni di casta andiamo alla riproducibilità di un sistema di rappresentanza solo per riproducibilità di casta. Beh, questo mi sembrerebbe un evento di fronte al quale non credo che l'offerta politica italiana resterebbe tale quale. Tornano i Doors e noi sentiamo qualche ascoltatore. Cominciamo con Livia da Milano. Prego, Livia. Buongiorno signor Giannino, io volevo dirle questo: che avevo molta fiducia nel governo Monti, ma che questo indietro tutta, che lui ha fatto di fronte a tutte le categorie, le lobby, i taxisti, i notai, i farmacisti, gli avvocati, eccetera, eccetera, beh, devo dire, mi ha molto delusa. Sta mostrando i muscoli questo governo, come sempre, mostrano i muscoli con le categorie più deboli, sociali, che sappiamo già quali sono. E mi viene sempre da pensare a una frase che mio suocero diceva: chi che l'ha da aver, l'ha da dar. E questa frase è sempre attuale, sempre si ripropone. E questa, io comunque voglio avere fiducia, e sono sempre in attesa di proposte nuove, concrete, e non voglio pensare come mio suocero, che buonanima, un ragazzo del 99, che ha fatto la prima guerra mondiale, che non c'è più da tanti anni, ma voglio avere fiducia e cambiare questa frase con: sì, la giustizia ci può essere per tutti, tutti facciamo un po' di sacrifici per il bene dei nostri figli. Livia, io penso che sia molto efficace nella comunicazione Monti nelle serie alte, in Europa, nei consessi come il Fondo Monetario, sì, e così via, lì è strepitoso. Con gli italiani ancora non troppo, è troppo impacciato, perché io avrei detto alle categorie che lei elenca e che attraverso i partiti stanno smontando: signori, io devo a voi quello che ho riservato ai pensionati italiani alzandogli il tetto da un giorno all'altro. E andava fatto, io sono stato sempre il primo in prima linea a difenderlo, ma non di meno a voi. che lo dobbiamo ai pensionati. Questo argomento agli italiani li farebbe pensare, darebbe molta più forza e difficoltà ai partiti a smontare in Parlamento la misura che stanno smontando proprio in queste ore. Questa però è la mia modestissima opinione. Maria Teresa da Torino, prego Maria Teresa. Buongiorno, senta, io volevo tanto dire che se gli elettori non si rendono conto che c'è un conflitto di interessi enorme tra noi e questa oligarchia che è autoreferenziale, pletorica e privilegiata, è veramente un disastro. Io le dico due chicche. Allora, una legge elettorale che veramente ci ha trattati come sudditi, e poi il famoso finanziamento dei partiti che è stato, diciamo, abrogato, e loro ci hanno inventato gli rimborsi elettorali. Io per due volte non sono andata a votare, però hanno preso il rimborso elettorale anche su di me, perché anche su noi, gli aventi diritto, che prendono questi soldi, per cui è una vera vergogna, un bel assenteismo di massa e ricominciare tutto da capo, perché questa oligarchia ci ha fatto vedere di che cosa è capace a fare. Ma come dice lei, l'oligarchia però sull'assenteismo di massa va avanti comunque. Comunque io capisco chi la pensa così. Io per esempio sono dell'idea che non è il bipolarismo che non ha funzionato, è il fatto che abbiano mantenuto in piedi un sistema di finanziamento ai partiti, per cui con lo 08 continui a farti il tuo gruppetto. Quella è stata la cosa di fondo. Bene, abbiamo finito il tempo. Io ringrazio il professor Pasquino, Alessandra Ghisleri, Polito e tutti voi. Appuntamento a domani.